Sì, in effetti tantissimi passano anche dai nostri uffici in giro per la Francia. Noi siamo un po' presenti in tutta la Francia, siamo in 7 regioni su 12 regioni francesi, e lavoratori italiani, soprattutto i lavoratori stagionali dell'agricoltura e dell'edilizia, della ristorazione, passano da noi tantissimo. Siccome è il tema di oggi, quello di lavoratori stagionali italiani che vengono a lavorare in Francia, come dicevo, ripeto, sono tantissimi e vengono per motivi. Io ho avuto l'occasione di parlare con tanti di loro in vari nostri uffici in giro per la Francia, e vengono soprattutto per due motivi importantissimi. Uno, che il lavoro in agricoltura in Francia è al 100% regolare, difficile trovare un lavoratore italiano, un lavoratore dell'agricoltura in Francia in nero, diversamente di quello che abbiamo vissuto, di quello che ho visto io personalmente, perché ho fatto 34 anni di sindacalista in Italia. Spesso, non dico tutti, spesso i lavoratori in agricoltura sono in nero, sono schiavizzati, sono mal pagati, e tutte le cose che noi abbiamo sentito anche in questi anni. Sì, come fenomeno del caporalato, ad esempio, no? Caporalato, esattamente, e così via. In Francia è difficilmente trovare queste situazioni. Quasi il 100% dei lavoratori sono regolari, con dei contratti stagionali a tempo determinato, stagionale a tempo determinato regolare, con i contributi pagati, con l'orario di lavoro, come sapete in Francia sono 35 ore a settimana, e così via. Questo è uno dei motivi fondamentali per i quali diciamo, i giovani italiani scelgono di venire in Francia per lavorare, soprattutto nella la raccolta di l'uva, la vendemmia. L'altro motivo è che hanno una buona, i contratti, questo voglio sottolineare, i contratti stagionali nell'agricoltura in Francia non possono superare per legge 8 mesi, e dopo il tempo, diciamo, che è il massimo 8 mesi, prendono una buona disoccupazione. Questo è un altro motivo molto importante. L'altro motivo, che non è secondario, perché ho parlato anche con i giovani studenti, che è il lavoro in agricoltura qui in Francia è anche un divertimento, nel senso che questa specie di lavoro accomuna i giovani, ragazzi e ragazze, che si divertono anche lavorando e facendo un po' di soldi per pagare gli studi e così via. Questi sono i tre motivi, credo siano importanti, per cui i giovani scelgono di venire a lavorare in agricoltura in Francia. Ecco, non ci sono ovviamente solo giovani italiani, e spesso nelle vigne, nei campi, ad un punto per la vendemmia, ci sono anche giovani provenienti da altre zone d'Europa, quindi anche uno scambio interculturale. Esattamente, infatti lo prendono proprio come un'esperienza di gita, di divertimento, e allo stesso tempo lavorano regolare e guadagnano anche un po' di soldi, diciamo, più di quello che possono guadagnare in Italia, visto la situazione dell'agricoltura in Italia, ahimè, è sempre a peggiorare. Ma a tuo avviso, come dire, queste condizioni migliori del settore agricolo francese a cosa sono dovute rispetto a quello italiano? Sono dovute sicuramente a un approccio culturale molto importante. Per fare un esempio, spesso diciamo, tra virgolette, i padroni, diciamo, gli imprenditori della cultura in Francia sono ingegneri, sono persone che hanno fatto, diciamo, hanno un approccio al lavoro agricolo, un approccio molto avanzato, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista ambientale e così via. Questo è un elemento, credo, molto importante. E poi le leggi francesi, proteggono il lavoratore in maniera incredibile. C'è da dire anche su questo, non è che mancano le leggi in Italia, probabilmente ci sono delle leggi anche più avanzate di quelle che ci sono in Francia, però c'è un approccio civile da parte dell'imprenditore, da parte degli stessi lavoratori, che non accettano un lavoratore in nero, ad esempio, gli stessi lavoratori che lavorano nella stessa azienda, spesso non accettano quanto arriva, si dovesse arrivare un lavoratore non è in regola. E questo è un elemento, secondo me, che non è secondario. Certo, ecco, torno un attimo sul punto, dicevi, del sussidio di disoccupazione, dicevi che è buono, di quanto parliamo? Tenga conto che la disoccupazione qui è la disoccupazione uguale, diciamo, per altri dipendenti, altri lavoratori, è uguale, l'agricoltura è equiparata, diciamo, la disoccupazione di tutti i lavoratori, e varia qui dal 65% al 96% dello stipendio netto del lavoratore, e dura più di un anno. Quindi anche rientrando in Italia loro però hanno questo, certo, beneficio. Sì, anche rientrando in Italia, quando finisce il lavoratore agricolo, quando finisce la sua missione, il suo contratto, entrando in Italia, stando qui in Francia, il datore di lavoro per legge è costretto a dargli un certificato del lavoro. Seconda, è costretto a comunicare, diciamo, all'ufficio di impiego, diciamo, qui si chiama Pôle emploi, di comunicare le giornate, la contribuzione, la retribuzione di questo lavoratore all'ufficio di impiego, e di conseguenza questo ufficio si impegna a dialogare la disoccupazione al lavoratore.